Grazie Diego. Suonatela. :35, viva la libertà a tutte e tutti, venerdì 18 marzo 2011, tornano come sempre il venerdì le ore di religione, trasmissione di teologia estrema ogni venerdì a quest'ora sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dopo una puntata trascorsa qui e là sulla cinematografia del Risorgimento, che credo però non abbiate... non siete riusciti ad arare tutta quanta, insomma, ci sarebbe voluto un mesetto buono. E torniamo. No, lo vedevo pronto a intervenire. L'avevo lasciato. Torniamo non alla storia, ma all'attualità in qualche modo. Abbiamo con molto anticipo parlato di Mameli e dell'Inno di Mameli ben prima di tutte quante le storie di ieri, quindi quello ce lo siamo tolto come argomento, però in qualche modo restiamo all'interno dei grandi festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, perché ieri, oltre ai festeggiamenti, oltre all'inno cantato in mille maniere dal punk hardcore alla salsa colombiana, e oltre ai fischi a Berlusconi, La Russa, Alemanno, eccetera, e ci sono state anche delle dichiarazioni di un certo peso da parte delle più alte gerarchie cattoliche, in primis il Papa, proprio sulla vicenda dell'Unità d'Italia, il Risorgimento, e Unità d'Italia e Risorgimento, su cui il Santo Padre tutto sommato si è espresso in maniera abbastanza positiva, almeno stando a quello che dice, non ridete, e l'ha fatto diventare un processo in cui i cattolici quasi sembrava fossero una parte motrice, ecco, di tutto ciò. La qualcosa cozza un po' contro quello che abbiamo detto in questi anni di trasmissione, ecco, in particolar modo in quest'ultimo in cui ci siamo occupati proprio specificamente. Io ci sono? Sì, ci sei. Sia in voce che in spirito. Cozza con i fatti. Cozza con i fatti. Tu perché non contestualizzi adesso. Non iniziamo. Allora, parliamo di che cosa vuol dire contestualizzare, perché penso che tutto dipenda da questo. La vuoi buttare subito sul filosofico. Invece bisogna essere più elastici nel ragionamento. Vabbè, io direi partiamo subito. Faccio una rapida sintesi di quello che ha detto Benedetto XVI ieri. Una rapida sintesi? Ma tu che intendi quando dici che lo accoglie positivamente? Cioè, spiega la tua... Nel senso che penso a un ascoltatore di un TG che vede i titoli principali e dice Benedetto XVI, i cattolici hanno dato un apporto fondamentale all'unificazione d'Italia e al Risorgimento, e tu dici beh, cazzarola, allora vuol dire che è una cosa che guarda lo dice il Papa, insomma dovrebbe essere fonte autorevole, ecco. E perché ha detto tutto ciò secondo te? E non ha detto invece vergogna, 150 anni di infamia, ci avete tolto lo Stato Pontificio? Bella domanda. Anche se poi c'è pure qualcuno all'interno del cattolicesimo che dice è stata la nostra salvezza che ci hanno tolto lo Stato Pontificio, se no a quest'ora eravamo messi ancora molto peggio di quanto stiamo già adesso. Questa però è non si può dire apertamente. No, nel senso è una cosa recente. A livello questo dire meno male, lettura. È una lettura che alla luce di quello che è successo, no? Quello che io vorrei dire, però, per rispondere, diciamo, alla domanda, è che proprio perché noi contestualizziamo, senza entrare nel merito di appunto che cosa significa contestualizzare, o quantomeno, insomma, non approfondiamo tutto quello che è il discorso di che cosa significa avere a che fare con la storia e quindi qual è la prospettiva che viene adottata per lo studio del passato in generale, l'analisi. Non voglio imbattermi nel grande problema della filosofia della storia, ovviamente, che ci porterebbe ben oltre. Sì, sì, dovremmo cominciare da Sant'Agostino, anche almeno, se, ecco, anche in qualche se, modo anche toccati qui. Comunque. No, noi ne abbiamo parlato spesso di questo, però appunto evitando di affrontare questo versante, però siccome bisogna contestualizzare, no, per rispondere, ecco, è questo il problema, è il diverso modo di contestualizzare. Perché c'è un diverso modo di contestualizzare? Perché se io mi confronto con quegli anni e guardo a che cosa accade nella Chiesa, che poi è il tema di tutte queste trasmissioni, quello che noi, solo che noi ancora non siamo arrivati proprio a ieri, cioè il 17 marzo 1861, ma siamo ancora alla metà degli anni 50, ma ci arriveremo nelle prossime puntate, quindi ci torneremo su questo tema e quindi non dico nulla dei fatti, voglio dire. A parte però alcune essenziali notazioni che bisogna recuperare per capire, cioè in quel momento tutta la questione, per esempio, che abbiamo anche noi accennato, no? Il Papa liberale, che sarebbe poi il primo Pio IX. Il primo Pio IX, 48. Il Pio IX di i primi mesi del 46, ecco, quindi salutato come un anno di pontificato, quindi salvezza dopo. Poi lui ne ha fatti 30 e gli altri 29 sono il Pio IX. L'inizio era confortante. No, però va bene, appunto, cioè, bisogna pure capire che vuol dire il Papa liberale, cioè, ma dire Papa liberale è una costruzione folle, insomma, queste sono delle sintesi di una divulgazione che è anche viziata proprio da una volontà di distorcere a monte, sì, anche rischioso, il discorso per poter contenere dentro tutto questo una serie di questioni che ovviamente non ci sono e sono quelle dell'epoca, cioè siccome un pontefice che si esprime in un certo modo e cioè con un dubbio verso certe questioni in quel momento lì è una novità che viene percepita come alcuni quasi incredibile e favorevolissimi sono a questa possibilità, esaltano e quindi in quel momento c'è la percezione da parte di queste persone che, appunto, per amor di contestualizzazione, dopo un pontificato agghiacciante come quello di Gregorio XVI, in cui la repressione ha raggiunto, esatto, livelli incredibili, quindi, esatto, questa è anche una ragione per cui viene salutato come il Papa della novità, il Papa che accetta quelle questioni, peraltro molto semplici, almeno sulla carta, che erano state del tutto rifiutate dal Papa precedente, cioè, stiamo parlando di libertà di stampa, l'accettazione di una certa modernità dal punto di vista tecnologico, quindi in realtà questioni che ricordiamo siamo nell'Ottocento, cioè oggi parleremo della seconda metà degli anni 50, vedremo che cosa dirà il Papa proprio Pio IX in termini teorici, quindi analizzeremo una parte di una enciclica teorica, stiamo parlando di una modernità avanzata, cioè nel frattempo negli anni 50 c'è Marx e Grundris, quindi siamo in un momento in cui quello che sentiamo è così un discorso teologico-politico non troppo dissimile, come andremo a vedere, dal 1300, dal 1200, quindi da Innocenzo III, per capirci, ma in un momento storico in cui effettivamente il resto del mondo è totalmente altrove dal punto di vista dell'elaborazione teorica, della scienza, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, quando tu hai letto, insomma, c'hai ricordato cosa accadeva, tutte le scoperte scientifiche. Quindi, appunto, quindi questa cosa, esattamente, ci fa capire che in quel momento questo Papa liberale della primissima ora, che poi ovviamente adesso diciamo cerchiamo di dire perché, ma molto rapidamente, poi diventa il Papa del sillabo, che è questo il discorso, l'esito, no? E noi leggiamo che il sillabo è la sintesi di un discorso complesso, che diciamo di reazione totale filosofica, di tentativo di reazione da parte di alcuni settori del pensiero filosofico, che sono quelli appunto della reazione, ma direi della reazione più becera e anche rozza, ovviamente. Sì, ormai quasi cioè, totalmente fuori tempo, diciamo, un assolutismo inaccettabile da secoli ormai. In cui dentro questo pensiero ci sono le tracce ben visibili che poi prenderanno la forma del sillabo e che tradotte appunto diventano quell'elenco, che è un elenco di affermazioni che in realtà sono negate, no? Cioè la Chiesa non è vero che accetta questo, perché tutti questi sono errori, cioè è errore che la Chiesa sia aperta alla e così via. Ci sono una serie di enunciazioni che sono degli errori e abbiamo detto tante volte che cosa sono questi errori, da dove viene il giudizio per definire che quello che lì è elencato è un errore, appunto la libertà di stampa, di pensiero. E inutile rifare questo elenco, ma semplicemente dicendo che tutto quello che tu dicevi, cioè quella modernità che si andava e dispiegando con una rapidità che è ovvio che in molte aree dell'Europa in quel momento sicuramente, ma anche ormai già il mondo si stava globalizzando sicuramente, e non sono colte perché c'è ancora un mondo contadino, sì, lontano, che non percepisce nulla, però le elite intellettuali, i ceti politici, le aristocrazie e ovviamente tutte le gerarchie clericali, prima fra tutti quella cattolica, sono tutti pienamente consapevoli, perché sono gli artefici o della reazione appunto o dell'accettazione o della spinta invece verso il progresso. Quindi tutto questo è un dibattito che attraversa ovviamente il piano filosofico, ma in generale il piano della cultura, attraversa ovviamente il mondo dell'arte in tutte le sue manifestazioni, e si vede quando noi andiamo appunto a rintracciare gli aspetti più interessanti di quel periodo. Per esempio, faccio una parentesi, scusate, ma ci tengo perché prima ne parlavamo, insomma, qui noi siamo viziati da un crocianesimo aberrante che ha devastato completamente, diciamo, le categorie delle categorie proprio la comunità, il giudizio, no? Le categorie del giudizio della comunità scientifica e anche poi della cultura del paese, e ne paghiamo le conseguenze. Le cose ovviamente hanno subito una trasformazione profonda, ma c'è ancora una continuità ambigua nel giudizio estetico che diciamo appartiene alla cultura iconografica del paese. Quindi la percezione di un certo modo di fare arte in tutte le sue forme, partendo dalla pittorica principalmente, no? Ma anche in letteratura, insomma, che quando noi andiamo a vedere per esempio una mostra oppure un museo oppure vediamo delle immagini, non troviamo in queste raccolte, tranne dei tentativi che però qui in Italia sono sempre poi viziati da interventi ideologici che tentano di recuperare a questo o a quella parrocchia una rilettura, ma in realtà il discorso invece sarebbe di superamento totale di determinate categorie che sono quelle che diciamo prima. E scoprire che poi ciò che veniva giudicato fino a ieri arte bassa, invece, no, ha tutt'altra valenza. E questo è ovviamente non stiamo svelando niente, questa è una cosa che fortunatamente si è posta molto molto tempo fa, insomma. Qui ancora così a livello diffuso il modo di distribuire la percezione dell'arte come un fatto che deve appartenere a tutti, no? Di condividere di sensibilizzare, quindi educare sostanzialmente, è viziato da una lettura paradigmatica che ancora risente di questa cosa. Chiusa questa parentesi anticrociana, ma io ci tenevo blandamente anticrociana, perché ho cercato di evitare qualunque tipo di riferimento, proprio ho fatto proprio così una banale sintesi di una critica, sì, così. A parte questo, quello che dicevamo cambia tutto questo scenario e la Chiesa si deve confrontare con lo slittamento totale di quello che è il piano del suo discorso teologico con quello della realtà, che finché, ecco, c'è stata una certa condizione, la cosa ha parzialmente funzionato, anche se c'era, come dire, c'era una, un progressivo slittamento, esatto, c'era una vibrazione che però tendeva e tirava verso una direzione. Quindi le due sfere, le due semisfere, no? Mi ricordo, no, insomma, un esperimento sulle semisfere. La fisica al liceo mi è forata questa cosa incredibile. Mi piacque molto perché tiravano quei buoi lungo il fiume, per quello che aveva svuotato l'aria dentro. Diceva, guardate, questi non la riescono a separare. Io ero entusiasta di questa cosa geniale. Nel Settecento erano grandiosi, proprio questo, bellissimo. Poi rivedere queste. Poi c'è l'omino di Angela che li rifà proprio i modellini. Questi, no? È la cosa. Quello è esaltante pure, mi piace. È molto esaltante. Questi modellini tutti bellissimi. Poi le miniaturizzazioni delle cose sono meravigliose. Sono, eh? Beh, i bonsai sono, io hanno un fascino, secondo me, no? Sì, un po' contorto, però ce l'hanno. Vabbè, però c'ha un fascino. Il fatto sì, che è una quercia alta 50 centimetri. Sì, sì, comunque però, stai dominando una quercia. Però è un affascino. Sì, insomma, non è che non ci sono più le querce. Uno si fa la quercettina da camera. Insomma, però cominci così e poi finire le centrali nucleari. Sì, si comincia con i bonsai. Quelli così hanno cominciato. Poi. No, poveri bonsai. Quindi, in questo scenario, loro hanno questo slittamento che è scricchiolante, quindi le scosse di preallertamento c'erano da tempo. I fondamenti. Sì, poi Lautaro aveva dato una bottarella, quindi queste due sfere erano basate. Però, diciamo, c'era stata una reazione Trento e poi i postumi che aveva mantenuto un equilibrio sempre più precario, che di cui erano consapevoli, quindi bisognava porsi il problema, perché la questione della riforma in generale, non la riforma luterana ma in generale, di confrontarsi, riformare significa che uno ha una visione del mondo, in quel caso, no, loro, e poi gli accadono intorno delle cose e dice ma ne prendiamo, come facciamo? In tutto il mondo antico la stortura era che tu avevi la pretesa attraverso questo il mantellone teologico della lettura totale, perché tanto tutto viene da Dio, quindi qualunque cosa, e quindi poi ovviamente con lo strumento del demonio si poteva creare l'altro mondo per giustificare il tutto, c'era tutto dentro questo, tutto contenuto in una... Però a un certo punto le cose cambiano, e io l'ho detto l'altra volta, l'ho detto, lo ricordate in una puntata scorsa, lo richiamo di nuovo, perché oggi purtroppo, oggi nel senso in questi giorni, il disastro in Giappone, insomma, ci fa ritornare proprio agli occhi questo evento, che è quello del terremoto di Lisbona. Il terremoto di Lisbona è 1752, 3, oddio, 5. Beh, ora controlliamo. Cazzo. Facciamo un check. Una delle più grandi poi speculazioni edilizie della storia moderna, dopo. Quella dopo, però, col conte de Pondel. Però succede una cosa, cioè a un certo punto arriva una botta, crolla tutto, e a un certo punto qualcuno dice c'erano delle persone che pregavano in chiesa e sono state sommerse dai detriti e morti tutti, seppelliti. Questa domanda fino a un certo punto ha trovato, quando è accaduta precedentemente, cose analoghe, no? Era 755. 55, ho detto bene l'ultima data, sì, 55. Non so perché prima. Dicevo, ieri ho letto un articolo in cui, non mi ricordo dove, che cosa, su Repubblica, non so, no, i siti, questi siti, non mi ricordo, no, forse. E che diceva? Che qualcuno ha intervistato dei politici fuori del Montecitorio su Roma Capitale, delle cose così, insomma, se sapevano le date. È comandata, non lo so immaginare, una catastrofe, una cosa allucinante, la breccia di Porta Pia, 1900, una cosa veramente 17. Surreale. Uno a un certo punto ha detto che la capitale per un po' è stata Salerno. Vabbè, però perché quello c'aveva ancora la svolta di Salerno, era del PD, sarà stato, non lo so, reminiscenze di sinistra, era una rivendicazione, no, delle cose surreali. Comunque questo slittamento che ha dentro il terremoto di Lisbona, attraverso questo fatto che dicevo della distruzione della chiesa, quelli proprio stavano pregando, no? La preghiera serve ad allontanare il male, a tenere un contatto con Dio, quindi erano al massimo di quello che veniva millantato peraltro da secoli, e vengono distrutti. Qualcuno ormai, dopo tanti secoli di di chiacchiere attorno a questa cosa che avevano funzionato, perché c'era tutto un mantellone teologico che reggeva, perché faceva comodo ovviamente ai poteri che tutto questo funzionasse. Poi tutti sapevano benissimo che a un certo livello, quando ti poni un problema, dici: ma li stiamo prendendo in giro? Anche qualche papa era consapevole, dice, beh, però è meglio così, perché è inutile, questa gente bisogna non dare scandalo, perché questi sennò non capirebbero che il mondo è così orrendo e corrotto. Che questa è la logica che si chiama il grande filosofo italiano, uno dei più grandi filosofi italiani del Novecento, cioè Guido Calogero, chiamava pedagogia del nascondere, che è l'educazione cattolica. Esatto, contrario di quello che dovrebbe essere la pedagogia. Proprio, esattamente. Esattamente. Uno strumento per svelare. Esattamente. E questo è il motivo per cui qui abbiamo un certo tipo di censura che è particolare e che produce il massimo del soddisfacimento del potere, cioè l'autocensura a monte, di chi neanche ha bisogno di essere censurato, insomma. Beh, quando c'è una sudditanza al potere. Perché pedagogia del nascondere significa che uno non è mai emancipato e non lo sarà mai. Perché c'è sempre un non detto che è custodito da qualcuno che non lo svela, perché crea è pericoloso. Corruzione proprio nei giovani, nei semplici, le varie definizioni che vengono date. Domina il discorso. Gli stolti, così. Non è altro che qualcuno che dice: siccome io sono il Papa e c'ho un gruppo di gerarchi che devono mantenere questo potere, teniamoci il segreto, perché se lo diffondiamo, qui è come la via della seta, che uno dice il bago, no? Hanno tentato di. C'era la pena di morte se qualcuno esportava i baghi da seta, perché poi non ha retto. C'avevano ragione, perché era una cosa che. Insomma, e quindi il cinese che lo beccava alla frontiera col baghettino dice: io vado via giù la capoccia. No? Quindi, insomma, il segreto è una cosa che. Figuratevi un segreto di così qualche menzogna su. Totale. Esatto, però. Capito? Totale. Questo è il creato, Dio, il bene, il male. Lo sappiamo solo noi. Dobbiamo costruire un sistema che funzioni. Ci alleiamo con qualcuno, si diciamo: guarda, io ti do questo, ti garantisco la pace sociale, tu fai quello che ti pare. E noi diciamo pure che la schiavitù è un bene perché la vuole Dio, così non rompere. E qui ma che meraviglia questa religione, ma io mi converto, ma tutti i re chiaramente dicevano, è molto interessante. Poveri, insomma, i germanici. Dicevano, io ho sempre avuto un sacco di problemi con questi vettinelli a bada, con questi cavoli di cose di legno, delle divinità, ma voi siete ammazza, funziona. Ecco, è molto più razionale. E questo gli è andata bene fino al 1700, grosso modo, insomma, più o meno. In realtà no, perché abbiamo detto che le cose... Però ha reggiucchiato. Qualche contadino in Germania. Sì, certo. Però il grosso, no? Poi a un certo punto ci sono state delle... E questa cosa del terremoto di Lisbona, cioè qualcuno che comincia a dire: raga, ma non ce la stiamo a raccontare, questi stavano in chiesa a pregare, si sbraga tutto e questi vengono a dire che è nel disegno di Dio. Che poi questo era solo un assaggio di quello che accadrà molti secoli dopo, nei lager, nel senso che, per quanto riguarda, che è analogo, nel senso un popolo eletto che si ritrova lì in massa, il progetto era tutto proprio, e allora qualcheduno loro stessi dice: ma insomma, è un po' strana sta cosa, cioè no, da dove la derivano questa distruzione? Poi chiaro che la loro lettura ha mille rivoli, ci sono mille spiegazioni, c'è un dibattito di cui io non conosco neanche una minima parte, perché è complessissimo, quello proprio interno alla tradizione ebraica che ha elaborato di dopo Auschwitz, diciamo. Qui ne conosco una parte più filosofica, però questo è il tema che si pone in modo gigantesco di fronte a qualcosa di gigantesco, che hanno milioni e a tutti quanti, compresi poi tutti gli altri travolti poi dai lager. Però è chiaro che sull'ebreo fa un effetto particolare, perché l'intento lì è preciso di un certo tipo e si porta dietro un discorso appunto teologico. Sui rom, gli omosessuali, il discorso, i politici che sono stati anche a molte migliaia sterminati, però si colloca in altre aree della distruzione dell'individuo. Qui il discorso si ricollega appunto a quella che dicevamo prima, micro, in questo caso in proporzione, evento, ma disastroso per la Lisbona dell'epoca, che è un terremoto peraltro naturale, quindi insomma già è più, da un lato è più spiegabile, dall'altro è più drammatico, perché lì veramente, se Dio muove tutto, perché decide di sbragare Lisbona? Visto che questo Dio deve avere una volontà, in quanto non è questo Dio deve avere una volontà, perché se no è finita. Spinoza l'ha pagata per aver negato la volontà di Dio. Quindi... Poco prima, infatti, poco prima, perché Spinoza diceva: raga, ma cosa state dicendo? Ma se un Dio c'ha una volontà, ma... uomo, non è un Dio, cioè, quindi... infatti lo volevano far fuori tutti. Cioè, un certo tutti punto, beh, dai, certamente. Era proprio l'obiettivo primario. Tant'è vero che appunto qualunque filosofo così, o anche studente molto bravo, se riflette bene, sghignazza di fronte alla teologia cattolica, perché... No? Heidegger, vabbè, proprio insomma, se la ride alla grande, perché dice: questi vogliono far diventare il cerchio quadrato, quindi insomma proprio così dice, esattamente così. E quindi non usa mezzi termini. No, dice, ma come si permettono di chiamare, di dire che esiste una filosofia cristiana? Non ha proprio... Quindi, e non è certo un... non so, un anarco rivoluzionario a parlare, insomma, ecco, quindi viene da un percorso è abbastanza conservatore, certamente, anche se a quel livello il discorso è suo personale, quindi insomma non ha una ricaduta sociale, è tutto suo, insomma, è parte dalle adesioni molto discusse, appunto, ecco, insomma. Allora, quindi questa cosa produce questo slittamento che a questo punto, dopo questo discorso del terremoto, che poi è semplicemente la ragione illuminista che comincia ormai a essere incontrollabile, no? Ed è cattiva, è ironica, grande dramma. Neanche nella parte dell'illuminismo, perché neanche a dire era un terremoto, no, appunto, che in... si era verificato a Parigi. In Portogallo, dove poi però andrà a metterci una pezza molti secoli dopo, un paio di secoli dopo, proprio la Madonna in persona, sempre il povero Portogallo. Così, tanto per dire, da adesso voi avrete, da questo momento io arrivo, poi avrete una serie di dittature per 30, per 50 anni. Però, non è, ecco, questo il problema. Non è questo il problema, è altrove. 75, 60 anni. Però tranquilli, che però tranquilli perché è tutto previsto. Fino a, voi non sapete, ma insomma, fino al 75, dopo poi sarete... non lo so, adesso il Portogallo, so se... beh, ci hanno avuto qualche anno di frizzantezza, hanno guizzato anche loro, sì. Chissà a spese di chi, no. Però qualcuno, bel posto comunque il Portogallo, devo dire, decisamente, come ambientazione anche a me piace, poco usato nel cinema, almeno insomma cinema internazionale, poi c'è il cinema portoghese, c'è il giovane di Oliveira, beh, Oliveira, il giovanissimo Oliveira, ormai di 114 anni, che continua a girare. Beh, c'è Lisbo Story, che è molto bello dal punto di vista visivo, insomma, uno degli ultimi film di Gnitosini di Wenders, ancora un po' un ultimo guizzo, perché già aveva un po' di sbarellato, poi dopo è diventato, adesso sta nel delirio, è misticheggiante. E lì pure ha avuto la deriva esoterica, che l'ha un po' fregato. Sì, voglia. Infatti poi ha fatto il film su Palermo, che era in piena visionarietà. Visionario, beh, anche quasi un'allucinazione... Sì. Indotta, sì, diciamo, da farsi visitare da un amico bravo, gli diceva tranquillo, abbassati, è tutto ok. Quindi questo slittamento adesso è fortissimo, no? E allora quando questa letteratura di conservazione assoluta prende corpo, finisce poi dentro al Vaticano, perché il Vaticano appunto si terrorizza, perché vede che si possono coinvolgere anche questi ceti popolari. Sì, improvvisamente. Anche di cui loro sono, esattamente, sono molto diciamo attenti a non toccare, perché sono la base della loro esistenza. Se non sono, se quelli non rimangono così, e che per cui loro ne controllano totalmente la vita, scandita dall'alba al tramonto e dalla nascita alla morte, e gestendone la paura, l'orrore, il terrore, tutto quello che è la mostruosità del cattolicesimo ottocentesco di reazione, perché già siamo in piena reazione, sono secoli che comunque si reagisce contro il luteranesimo, quindi è violentissimo, è repressivo, e anche nelle forme che vengono millantate come invece tutto al contrario, però queste sono delle sottigliezze che non lasciamo veramente alla polemica. È un cattolicesimo disciplinare, ferocissimo, sì, molto quello che troviamo violento. E quindi temono che se c'è una liberazione, quindi una luteranizzazione sostanzialmente, perché poi qui significa repubblica, significa suffragio, significa la diffusione di una serie di presupposti, esatto, che determinerebbero inevitabilmente un allontanamento dalla sudditanza, in questo caso al parroco, che è l'omino di riferimento del territorio, anche microterritoriale, ovviamente poi gestito dalla diocesi, e quindi poi tutto un lavorio fatto da Trento in poi per tenere, con difficoltà enorme, fratture interne, crisi, perché non è che hanno proceduto a strada spianata, ma insomma per 300 anni erano arrivati a tenere quindi sotto controllo. Gli si paventa di fronte questo, in più quelle cose che dicevamo nelle puntate scorse, le varie scoperte scientifiche, e ovviamente una meccanizzazione e una industrializzazione che produce, se non altro, la ferrovia, la gente si comincia piano a muovere, si sposta, circolano più velocemente le lettere, e questo, anche se è minimo, perché parliamo di anni in cui è tutto appena appena in embrione, è però già un segnale fortissimo di un cambiamento, che percepito come un mutamento, esattamente, radicale. E allora in questo caso lì c'è la reazione, perché il piano teologico ormai è totalmente scardinato, e per difenderlo bisogna abbandonare il confronto con la storia e quindi inevitabilmente arroccarsi su una teologia dogmatica e una dottrina intoccabile, insindacabile, perché non si può mettere in discussione nulla, perché qualunque stecchino minimo, piccolissimo, anche in ultima, apre una falla che alla fine arriva a Roma. Questa è la motivazione per cui loro scrivono, loro, insomma, sì, poi viene, è Pio IX che, diciamo, mette il sigillo dell'anello, ma il sillabo, e poi produrranno quello che sarà il suo pontificato fino a il 1870, la caduta, il 71, Roma capitale diventa nel 71 ufficiale, e dopo Salerno il Papa dice sono prigioniero in Vaticano, non possumus, non ci muoviamo più, basta. E ritira i remi in barca. I cattolici ovviamente non ci stanno da subito e continuano a rumoreggiare, però per un po' resisterà questa, e anche perché di là c'è un'attività politica interessante, lo Stato unitario quantomeno tenta di, rispetto a oggi sono praticamente degli atei impenitenti, ma in realtà era semplicemente l'applicazione molto liberale di Cavour, libera chiesa, libero Stato, e quindi c'era una con tanti, non c'era niente di assolutamente, quindi... era il minimo che si poteva, ma proprio il minimo indispensabile, quello che era che si fece in quel periodo, il minimo indispensabile per avviare al minimo la nascita di uno Stato laico, poi con tutte le contraddizioni, questioni, le altre, insomma, perché lo Stato non era Stato repubblicano ma era monarchico, quindi insomma Mazzini spazzato via. Così anche Garibaldi, che era anche, diciamo, come dire, di venature socialiste, quindi tutta quella, verranno spazzati via, divinizzati, poi lo vedremo nelle puntate successive, però non anticipiamo. A questo punto andiamo proprio a mettere i piedi nel piatto, perché quello che abbiamo detto finora ha una forma scritta chiara e per certi aspetti agghiacciante e orrorifica. E parliamo dell'operato, già che abbiamo detto finora, no? Il Papa ha parlato del contributo, diciamo così, dei cattolici all'Unità d'Italia, e quindi il problema era un po' questa sorta di schizofrenia: i cattolici hanno partecipato ad una vita politica di un paese che appunto nasce, e qui senza che lo dica il Papa, appunto sulle ceneri dello Stato Pontificio, quindi c'è l'amor di patria che confligge con il cattolicesimo interiore. Questo è un po' quello che ci ha detto. Andiamo a vedere allora il contributo dei vertici invece della cattolicità in quel periodo, sotto forma di teoria e prassi. Tutto quello che abbiamo detto finora sull'autorità è ben qui espresso. Andiamo a leggere, eravamo arrivati alla fine degli anni 50. La frase... Abbiamo... Questa va, allora, leggeremo una parte della Singulari Quidam, che è un'enciclica di Pio IX del 1856, e nella selezione che abbiamo fatto tra gli scritti, questa qui è una di quelle più teoretiche, quindi che ci viene incontro proprio per questo discorso, questo conflitto con una modernità ormai inarrestabile. I nemici, diciamo così, ideologici, quindi il bersaglio polemico di questa enciclica, sono due, chiamiamoli macro concetti, che qui vengono chiamati come indifferentismo e razionalismo. Con indifferentismo, lo diciamo subito per semplificare la lettura che sarà arzigogolata del Papa, che è la stessa cosa che dice Ratzinger. Ci arriveremo perché era esattamente il punto di parlare. Perché, siccome è un po' complesso quello che stiamo dicendo, voglio solo dire una cosa. No, ti lascio subito. Io stavo rispondendo a lui che ci chiedeva, no, la questione. Allora, il finale è questo: parlando dello slittamento, questa divaricazione ha comportato a quell'epoca la reazione, diciamo, di chiusura totale, perché tutto quello che stava accadendo avrebbe portato a un evento tale per cui bisognava mettere in discussione le radici stesse di quello che era il sistema, che comprendeva ovviamente lo Stato della Chiesa e quindi il potere temporale. Nello stesso modo, cosa succede? Che oggi Ratzinger dice quello che dice sul risorgimento, mentendo spudoratamente, perché quello che stiamo dicendo è questo, ma perché, diciamo, mente perché chiaramente la sua lettura è totalmente distorta da elementi metafisici che sono le sue elucubrazioni teologiche, con le quali lui alle parole attribuisce un significato che va al di là di quello che è, diciamo, accettato normalmente. Vittestana avrebbe qualcosa da ridire sulle parole che non indicano. Esattamente, quindi sostanzialmente non dice nulla, e poi ha la sua dichiarazione, una dichiarazione a stampa che si fonda su quella beata ignoranza che noi dicevamo prima, e quindi di cui molto hanno bisogno. Utile. Oggi uno può dire che i cattolici hanno avuto un ruolo perché fa una manipolazione assoluta della realtà storica. E siccome nessuno sa che questa è una manipolazione, ma è una delle mille narrazioni per cui e siamo ormai totalmente nella notte in cui tutte le vacche sono nere, ma anche di più, quindi è difficilissimo per chi non è addetto alle ore districarsi, e quindi uno sente e dice perché. È il modo di fare storia, la porta a porta, e qui c'è... Esattamente. Sentiamo uno, ma sentiamo anche l'altra campana che dice... Così, appunto, alla fine non si sa, sì, ma non... Senza fondamenti. E quindi... Quello che loro, che Razzi che sta facendo ora quando fa questo discorso è, coincide, da un lato gettare fumo negli occhi con la menzogna, dall'altro lui non fa altro che dire qualcosa che deve coprire in realtà un'ulteriore reazione che è la stessa identica di allora, solo adesso è al Vaticano II, che invece è stato il tentativo, niente di che straordinario, ma di rimettere in discussione quella risposta del 1870, che poi comportò addirittura l'infallibilità, il dogma dell'infallibilità, quindi lo stesso, quindi il Papa liberale poi si autoproclama infallibile, la stessa persona. Forse non c'è niente di più distante nella realtà umana di un tizio che all'inizio ha fatto credere di... Beh, uno che si dichiara liberale allo stesso tempo infallibile, però ce ne stanno, non andarli a cercare. Beh, però diciamo non che... siedono sul trono di Pietro. No, questo no. Questo quello no. È grave. Controllano... Ci sono altre poltrone. Già all'epoca comunque qualche centinaio di milioni di individui. Ecco, quindi questo è il momento in cui abbiamo un pontefice che oggi dichiara l'apporto fondamentale dei cattolici al risorgimento, mentre in quel momento a quello che erano le istanze del risorgimento il Papa diceva, ma voi non... Cioè, è tutto sbagliato, qualunque cosa voi dite è un errore, tutto, a cominciare dai presupposti per cui voi dite quello che dite, cioè la libertà di pensiero, di opinione, tutto, e figuriamoci tutto il resto. E quindi andiamo nello specifico, qui abbiamo tutto questo in una forma, se vogliamo, molto più chiara anche rispetto al nostro Papa. Parlavamo dell'indifferentismo come bersaglio polemico e del razionalismo. Con l'indifferentismo è qualunque altra credenza, quindi oggi si parla di multiculturalismo, apertura alle altre religioni, confronto, eccetera. Ecco, non è affatto così, ribadirà in modo molto chiaro, extra ecclesia, nulla salus. Il razionalismo, invece, è tutto quello di cui abbiamo parlato finora, quindi la modernità, nelle forme pre- e post-illuministe, che tendono a mettere in discussione proprio i fondamenti, se non probabilmente teologici, quantomeno trascendenti. Quindi un grosso problema, non solo per questo Papa. E andiamo a vedere che cosa scrive in questa singolare quidam. Sono anzitutto noti gli innumerevoli e funestissimi danni che sulla società cristiana e civile si riversano dal fetido orrore dell'indifferentismo. Da qui la grave negligenza in tutti i doveri verso Dio in cui viviamo, ci muoviamo e siamo. Da qui trascurata la santissima religione, da qui scosse e quasi sconvolte le fondamenta di ogni diritto, della giustizia e della virtù. Da questa ignobile forma dell'indifferentismo non molto si scosta la teoria eruttata dalle tenebre dell'indifferenza delle religioni, per cui uomini estranei alla verità, avversari al vero credo religioso e in memoria della loro salute, docenti di principi contraddittori e sprovvisti di solido convincimento, non ammettono alcuna differenza tra le professioni di fede più divergenti, vivono in pace con tutti, attenzione, e pretendono che a tutti, a qualunque religione appartengano, sia aperto l'ingresso alla vita eterna. Infatti nulla importa loro, sebbene di diverse tendenze, pur di cospirare alla rovina dell'unica verità. Ecco, qui parla di uomini talmente folli che sperano di vivere in pace con chi la pensa in modo diverso. Cioè, siamo di fronte ad una cesura chiara. E poi andremo a vedere quali esiti nella prassi avrà questa lotta all'indifferentismo. Questo è il ruolo fondamentale del rapporto del cattolicesimo con l'altro, neanche al risorgimento, capito? Con tutto ciò che non è, diciamo, sotto la loro giurisdizione, è una bella predisposizione. È un bel contributo al risorgimento dell'umanità, a tutto, insomma. Qualora non fosse chiaro, il Papa ci dice... Non vi è che una vera, santa, cattolica, apostolica, romana, chiesa è una sola cattedra fondata dalla voce del Signore su Pietro e Padre. Chi non ha la Chiesa come madre e assurdamente confida di appartenere alla Chiesa a colui che abbandona la cattedra di Pietro sulla quale è fondata la Chiesa. Un po' tautologico, ma molto chiaro. Infatti non vi può essere maggior delitto e nessuna macchia più ripugnante che essersi posto contro Cristo, aver operato per la distruzione della Chiesa, generata e assicurata dal suo, maiuscolo, sangue divino, aver lottato con il furore di ostile discordia contro l'unanime e concorde popolo di Dio, avendo dimenticato l'amore evangelico. In vero, il culto divino si compone di questi due elementi, le pie dottrine di buone azioni. Vedremo quali sono queste buone azioni. Ma andiamo avanti fino all'abisso dell'orrore, perché adesso abbiamo capito che non c'è salvezza al di fuori della Chiesa cattolica romana, eccetera. Sempre per amor di chiarezza, il Papa ci scrive: che cosa dunque la Chiesa non tollera e non permette? Che cosa essa biasima e condanna senza remissione? In linea con lo stretto dovere di tutelare il deposito divino, la Chiesa respinge con veemenza e sempre condannò e condanna il comportamento di coloro che, abusando della ragione, non arrostiscono... Scusate. Arrostiscono è un lapsus che si può concedere. Si chiama lapsus bruniano, in realtà. Lapsus bruniano. Non arrostiscono né temono di opporla e di anteporla con empia stoltezza all'autorità, attenzione alla parola autorità, della parola di Dio, e mentre con arroganza si esaltano, accecati dalla propria superba presunzione, perdono il lume della verità, disprezzano con supremo orgoglio la fede in cui sta scritto che chi non crede sarà condannato, e confidando in se stessi negano di dover credere allo stesso Dio e di dover rispettare ciò che egli di sé offerse alla nostra intelligenza. Frase finale che c'è una tomba proprio d'orrore. La Chiesa non desiste dall'insegnare ad essi che la fede non è fondata sulla ragione, ma sull'autorità. Infatti, non conveniva che Dio, parlando all'uomo, confermasse le sue parole con argomenti, come se non avesse fede in lui. Ma, come era logico, Dio ha parlato come supremo arbitro di tutte le cose. A lui non si addice l'argomentare, ma l'affermare. E anche a me che ne sono il vicario. Ecco, quindi diciamo che... Questo è tra parentesi, ma... è sottinteso e tra poco infallibile. A breve infallibile. Non ci si può opporre a questa, al principio. Questa è la rivendicazione dell'assolutismo e del principio d'autorità su qualunque ragione. Ed è uno dei pilastri anche del pensiero risorgimentale. Tutti i grandi intellettuali, politici, non facevano altro che dire questo. Questo è l'apporto teorico. Direi che andiamo a vedere la prassi, allora, di questa lotta necessaria all'indifferentismo, quindi a questa folle possibilità di vivere senza uccidersi l'un l'altro, bruciarsi sui roghi, perché la si vede in maniera diversa. L'abbiamo fatto, ma non ci è andata bene, quindi adesso non lo possiamo più fare, quindi basta, abbiamo scherzato. Amici come prima. Prima tu parlavi, accennavi alla questione ebraica in qualche modo. In varia natura e proprio questione ebraica che diciamo bisogna riprendere, perché ne riparleremo, perché l'ultimo, adesso c'è la seconda parte del libro su Gesù, è uscito. Il Papa la seconda parte il 22 aprile in una trasmissione che si chiama A sua immagine, se è una specie di cilicio televisivo, se volete vederlo, esatto. Se qualcuno vuole così. Un po' di autolesionismo. Io sono appassionato. Appassionato? Di A sua immagine. No, sua di immagine. Protestantesimo. Ah, protestantesimo io da sempre. E anche sorgente di vita. E sorgente di vita. No, A sua immagine si è ben. A sua immagine, beh, dei tre programmi sulle le religioni. Però è terrificante. Ma mediamente io sono degli squilibrati che hanno avuto miracoli, che vengono invitati a testimoniare. Bellissimo, è bellissimo. A sua immagine la è bellissimo. Grazia di Dio. E altre amenità. Vabbè, diciamo. E c'è lui di persona. C'è lui che risponde a delle domande, però attenzione, preparate e selezionate dalla redazione, quindi non è che possiamo telefonare noi e piantare grane. Sempre il minimo. Insomma. Comunque, sì, che risponde. Comunque, lui qui interviene sulla questione del Gesù storico. Insomma, adesso non possiamo parlarne. Che non era un rivoluzionario. Sì, però anche la questione del deicidio ed ribadisce, quindi. Si rivendica che insomma la Chiesa non ha perseguitato gli ebrei fino al 1965. C'è qualcosa, sono oltre 50 anni. Capito. Ebbene, allora, quindi ne riparleremo. Ne riparleremo. Quindi andiamo a vedere. Siamo in lettura faticosa perché è dura, ma lo leggeremo per voi e vi commenteremo. Sì. Sarà una gioia. Un piccolo audiolibro di sintesi. Un compendio, diciamo. Ma siccome all'epoca non era così, quindi la Chiesa è un po' volubile, diciamo, dice, fa, disfa, fa, adesso sono tutti amici, fratelli, vi volemo bene, gli ebrei sono fratelli maggiori, vediamo questo contributo appunto al Risorgimento. Prima noi leggevamo delle opere, no? La Chiesa deve fare delle opere di bene, di pace, eccetera. Ecco un'opera chiara che in qualche modo ci riporta alle questioni appena enunciate. Parleremo del caso Mortara, che è uno dei più noti e più inquietanti eventi di quel periodo. Allora, andiamo ai fatti, che da un certo punto di vista parlano da soli. Allora, la sera del 23 giugno del 1858, la polizia dello Stato Pontificio, che insomma, a quei tempi comprende anche Bologna, lo Stato Pontificio, nonostante le numerose rivolte di cui abbiamo parlato, non erano affatto contenti di avere questo tallone sulla nuca, però... Diciamo che in quel tempo inevitabilmente stanno sotto lo Stato Pontificio e quindi la polizia dello Stato Pontificio entra dentro casa Mortara, che era una famiglia di ebrei, Marianna e Momolo Mortara, esattamente, per prendere uno dei loro 8 figli, Edgardo, che al tempo aveva 6 anni, per portarlo a Roma dove sarebbe stato allevato dalla Chiesa. Perché questo? La polizia agiva direttamente su ordini diretti del Santo Uffizio, autorizzati da Pio IX, cioè l'Inquisizione. L'Inquisizione, che la stessa cosa, cambiato solo il nome. E quindi autorizzati direttamente da Pio IX, esattamente. Non hanno certo agito di loro sponte. E, i rappresentanti della Chiesa dissero che una cameriera cattolica, che era la cameriera della famiglia Mortara, quindi una giovane donna non coltissima probabilmente. Assolutamente no. Locale, era 14enne quando direi una ragazzina che nel panico del bambino che era stato malato lo fa battezzare di nascosto, diciamo, esatto, in articolo mortis. La 14enne Anna Morisi, quindi insomma 14 anni, battezza il piccolo Edgardo, quasi incapace di intendere di volere, ovviamente. Sì, diciamo, in preda a paura e terrore, pastorelle, esattamente, delira e lo battezza. Sì, quello si salva. Quello si salva. No. Certo, si salva dal limbo, c'era il pericolo del limbo. Quindi, di fatto, il battesimo di Edgardo lo rendeva cristiano a tutti gli effetti, secondo le leggi dello Stato Pontificio. Ma il problema è che una famiglia ebrea non poteva allevare un cristiano, sebbene fosse loro figlio. Quindi, che cosa succede? No, ma dai, fermati, dai, basta. No, vabbè, veramente siamo all'orrore, ma senza che la bontà, che cristiana, e quindi le buone opere, quindi di io rapisco sentito, il bambino. Viene rapito da Pio IX e allevato direttamente da lui. Ma non basta questo gesto, che viene condannato da tutte le nazioni, viene condannato addirittura dalla Francia, da quel Napoleone III che di fatto ha riportato lo status quo nello Stato Pontificio, quindi insomma ha suscitato scandalo in tutto il mondo. E ha avuto il suo peso nell'abbandono comunque dell'appoggio anche al Vaticano, Assolutamente sì, comunque è stato un ottimo argomento per attaccare. Grandiosi, beh, certo, era troppo poco. Bisognava fare proprio una no-fly zone sopra al Vaticano. Esattamente, siamo a quel livello. Ecco che cosa risponde il Papa alle, che cosa risponde il Papa alle sollecitazioni. Che vuol dire una zona senza mosche, perché c'erano le paludi pontine intorno. Capire, era difficile, però capito? No-fly zone all'epoca. Esatto, era quasi impossibile. Ci hanno provato, però. Quindi il mondo intero si indigna, che ecco che cosa risponde il Papa: non sono interessato a cosa ne pensa il mondo, punto. Avevo il diritto e l'obbligo di fare ciò che questo ho fatto. Questo è, come dire, l'amore verso il creato. Sì. Me ne frego. E se dovessi farlo, lo rifarei di nuovo. Quindi io ho rapito un bambino di 6 anni ad una famiglia di ebrei. Non solo l'ha rapito, ma... sconosciuti, gliel'ho portato via così. Gliel'ha preso in quanto battezzato e quindi cristiano, ma non solo l'ha rapito, l'ha anche addestrato a convertire altri ebrei in quanto... praticamente diventa, certo, viene allevato come le scimmiettine, quelle con il pentolino col musicista che c'ha l'organetto. Questo lo hanno devastato, perché prendi un bambino di 6 anni e lo fai diventare quello che vuole. Ha fatto diventare un agostiniano addestrato all'addestramento degli prete alla conversione degli ebrei. Quindi a pagina parlavano bisogna essere perversi. Assolutamente. Poi ovviamente uno oggi ne parla e dice ma sul caso Mortara leggetevi cosa scrive lui da adulto. Sì, da adulto, a 18 anni, quando dirà di voler rimanere cattolico, tra l'altro il padre morirà quell'anno stesso, praticamente i genitori non l'hanno quasi mai visto, e appunto addestrato all'interno noi non sapremo mai dell'alea. Che cosa gli è stato detto per 9 anni, cioè, perché la violenza più grande in assoluto è quegli anni tra i 6 e i 18 in cui poi lui si manifesta con il discorso che dicevi tu, cosa gli è stato fatto? Non lo sapremo mai. Ma insomma, abbastanza per parlare di lavaggio del cervello è neanche è poco. Che cosa può fare un potere assoluto sulla psiche di un bambino rapito, quindi lo plasmi come un... Quindi ecco perché loro vogliono la scuola, il controllo, sono terrorizzati, perché se perdono il controllo con i mocciosi dove... lavorano su niente, perché uno non c'ha nessuna difesa, zero, è finita. Quindi bisogna stroncare qualunque tipo di autonomia della donna, perché la donna è quella che è la madrelingua, è quella che trasmette. Quindi noi, se controlliamo loro, controlliamo i loro figli, fine. E i bambini il più possibile devono essere, cioè deve essere un imprinting, sono come le oche di Lorenz, se no è finita. Se perdi l'anello iniziale, assolutamente. Dove avviene, questo genera autonomia sempre di più, e l'uomo si emancipa. Qui è anche, voglio dire. Ah, beh, sì, è il discorso dell'oggi. No? Assolutamente, no. Oggi è per una percentuale anche discreta del paese. Qui, nonostante tutto. 20-30% sicuramente non ha proprio, ma nitidamente. E poi c'è tutto il resto che è un magma folle di disperati che vengono ritenuti cattolici a loro insaputa, un po' come le case... Cioè sì, lo sanno perché sono stati battezzati, dopodiché molta gente, se sapesse veramente che cosa significa, scapperebbe a gambe levate. Sono una statistica. Sono un numero, così. E stanno lì, e vanno a sentirsi i preti locali con delle differenze surreali anche nella stessa città di Roma. Voi potete andare da una parrocchia all'altra e sentire preti locali che proclamano due mondi totalmente diversi. Dal loro pulpito, non è che sono, diciamo, della stessa organizzazione. Assolutamente, però... esattamente, diciamo, lavorano per lo stesso ente. Agenzia, diciamo. Sì, per la stessa agenzia di evangelizzazione. E quindi, insomma, tra gli esiti interessanti di questa storia, così nota di colore, avendo passato appunto la vita a tentare di evangelizzare in giro per il mondo, spedito così come Milizia Cristi, nel 1897 tentò di predicare a New York, ma l'arcivescovo di New York fece sapere al Vaticano che non si sarebbe opposto agli sforzi di evangelizzare gli ebrei in terra americana, e che i suoi sforzi mettevano in imbarazzo la Chiesa. Quindi di fatto era un problema che una persona, tra l'altro così famosa, perché il suo malgrado facesse questo mestiere imbarazzante. Nella New York nel Novecento non era proprio l'ambiente migliore dove andare a tentare di convertire degli ebrei. No, la cosa più vergognosa sono le cose che vengono dette per giustificare tutto questo. Adesso, poi, sì, perché sì, adesso. Se ne parla in tempi recenti. Non abbiamo svelato nulla. Questo, no, è solo un riportare. Roba che si fa anche alle medie, in terza media, il caso Mortara, in qualche libro di storia. Sì, però diciamo, continua a essere oggetto di polemiche in qualche modo, perché non è che si è mai divenuti a una riparazione almeno così formale. In Italia? No. Ma in Italia c'è qualcosa che non è oggetto di polemica? Cioè, comunque Pio IX è beato dal 2000, quindi... No, ma anche non di questo ambito, sì, nel senso che voglio dire... le polemiche partono a livello neanche condominiale, di pianerottolo. E quindi qui da noi, insomma, la convivenza è dura, molto dura. Figurati. Figurati con dei senza Dio. Come puoi avere a che fare? Insomma, valutiamo un po' se questo apporto al risultato. No, vabbè, noi abbiamo fatto questa considerazione appunto proprio perché il discorso è folle. Cioè, dire che il cattolicesimo è stato fondamentale, l'apporto detto da lui, che rappresenta quello che sappiamo. Poi il discorso è che se c'è stato qualche cattolico a livello intellettuale che ha contribuito, questo è fuori discussione, ovvio, però bisogna ricordare che erano considerati dei criminali eretici. Anzi, sì, peggiori degli altri, perché Rosmini prima gli hanno, l'hanno minacciato praticamente. Adesso c'è la grande riscoperta di Rosmini con un ipotetico processo di beatificazione. Beh, perché molto le piaghe, dopo, capito? Tutto si può e questo perché loro giustificano comunque il discorso dei due, dei due ambiti in quel momento. Sì, diciamo una doppiezza è anche evidente comunque. Totale, ormai smascherata. Quindi il gioco del doppio livello salta da Lisbona in poi qui viene sempre più smascherato e quindi ormai noi sappiamo che dicono una cosa, ne dicono un'altra perché da un lato una volta parla il Papa capo dell'organizzazione cattolica, un'altra volta parla il Papa sedicente vicario, quindi dipende da quello che dice, perché appunto poi deve. E questo Papa in particolare, questo, viene smentito, corretto, continuamente, è l'unico in assoluto che c'ha un comunicato, dopo due ore esce il comunicato della sala stampa, dice no, non voleva dire questo, ma che avete capito? Che a un certo punto aveva detto, no? Neanche Berlusconi, però, siamo sì, no, che comunque... Tra un caso di infallibilità... Quindi non c'ha bisogno, diciamo. Perché tanto che gli frega, non... Non c'ha nessun paradigma, perché almeno lui uno ce l'ha. Però appunto il fatto che i due livelli si avvicinino. No, è che si sono ormai talmente sgangherati che questo vorrebbe dire ma non dice, vorrebbe fare ma non fa. Perché sa, mica è stupido, sa benissimo di cosa parla e sa bene pure che è finito il gioco. Perché lui all'inizio era, tra virgolette, come dire, progressista, perché pensava. E poi ha messo le mani su tra gli anni 60, fine anni 60. Nel piatto e ha visto delle cose e improvvisamente ed è diventato quello che conosciamo, quindi il personaggio, quello che conosciamo come dottrina della fede, il personaggio che conosciamo, quindi come tutti quelli che si convertono in qualche modo, quindi lui è un riconvertito in un certo è un reborn all'ortodossia assoluta, però non è appunto uno stolto, quindi sa bene proprio perché conosce, no? Cioè, riesce a costruire un discorso, esatto, che è reazionario, ma non no, è ma i trucchettini infila dei pezzettini e quindi esatto, qualcuno ci abbindola, qualcuno riesce ad abbindolare perché ci infila un canto qui, un citazione qui, ha citato anche Kant, ormai poveraccio, lo tirano per la giacchetta, poi effettivamente Kant non è che è un ateo, cioè non... se non sbaglio che Ferrara ultimamente sbandierato che Kant, che vergogna, sì, non rivoltando nella tomba di più proprio i tripli carpiati sta facendo. Bene, quindi finito così oggi, perché abbiamo toccato questo argomento. La prossima volta invece ritorneremo sulle questioni e approfondiremo, e ritorneremo su questo. Questo era solo una risposta, insomma, una questione. Di dire che comunque appunto, questo discorso che abbiamo sentito sull'Unità d'Italia, cioè delle falle lui diceva là, perché l'ha detto. L'ha detto perché tanto non c'è nessuna memoria, non c'è nessun riferimento al passato, e quindi posso dire quello che voglio, anche mentire dicendo perché è importante oggi che dire, vedete? Noi ci siamo sempre stati, siamo fondamentali e quindi bisogna che la politica accetti questa nostra presenza, proprio politica, perché noi siamo parte anche politica. È un trucco sporchissimo. Però la cosa triste è che non c'è nessuno nel mondo della politica che esattamente, dica, perché sono tutti... Avete visto le dichiarazioni ufficiali di Pio IX? No, perché questo è un paese talmente folle dove uno dice, cioè il telegiornale dovrebbe dire, anche stasera il Papa ha detto una cazzata gigantesca, lo devi dire come prima notizia, perché in Inghilterra, in Danimarca, in Germania, cioè in qualunque paese civile, uno che dice che la storia del paese in cui vive è diventata fondamentale per coloro che sono quelli che le hanno osteggiata da sempre, sono mille anni che si oppongono a qualunque tipo di evento che determina il loro vacillare del potere, hanno massacrato tutto quello che potevano, perché già dal Medioevo i movimenti ereticali di varia natura erano semplicemente questo, erano delle letture poi totalmente teologiche che mettevano in discussione determinate, e loro insomma ci hanno proprio fatto anche le crociate, alcuni l'hanno proprio ammazzato e così via, qualunque cosa. Allora uno dice, questo dice il cattolicesimo è stato determinante, dicendo che allora confondendo un prete cattolico che ha che poi è stato che è stato a porta qui al Gianicolo con la Repubblica Romana con tutto il cattolicesimo. Sì, senza considerare che molti preti che hanno collaborato con all'epoca i cari patrioti sono stati fatti condannare a morte proprio dal Papa, come appunto abbiamo letto. Mentre oggi vengono riscoperti come appunto dei testimoni del ruolo del cattolicesimo, perché loro si accattano tutto dopo, capito? Insomma, quindi ritorneremo su questo tema, però ci tenevamo a dire che questa cosa è intollerabile, una dichiarazione del genere è veramente intollerabile, incredibile, questa e tutto il resto, insomma. Sì, sì, anche in conclusione. Non lo so se uno nel 1989, nel bicentenario, dichiarava il vescovo il ruolo fondamentale nella rivoluzione francese della Chiesa Cattolica, che cosa succedeva con Mitterrand al governo? Non lo so, io mi domando questo, insomma. Purtroppo perché è la stessa cosa. Però non c'è la cartina di tornasole, perché lì invece il vescovo... No, non lo so, può darsi che ci hanno pure provato, io non sono, non vivevo in quel giorno sì, lì. I partigiani sì, ma anche Salò, c'è questo discorso di un doppio che... è stato insegnato anche da questa particolare pedagogia, appunto, del nascondere la verità, del nascondismo. Oggi. La verità è l'onestà, la verità è l'onestà intellettuale, o qui o lì, ma se c'è la disonestà intellettuale in persona è il prete, perché è disonesto a mo, deve mentire, non può dire, non può dire, se dicesse è un problema. Infatti quelli che dicono poi, ma questo è evidente, quando un bambino piccolo chiede delle cose che a volte gliene capitano, penso, a migliaia ogni giorno, loro hanno dei grossi problemi quando uno ha 8-9 anni al catechismo gli chiede delle cose che vengono dalla famiglia e che sono evidentemente problematiche, perché un bambino che comincia a dire ma se Dio ha creato tutto, chi ha creato Dio, ma scopre la tautologia, che gli dice a un bambino? Gliela buttano in cagnara e lui poi si dimentica. Se non fa il filosofo nella vita, quindi uno su un miliardo, è finita, perché aveva capito nella sua infanzia, poi gli viene azzoppato il pensiero critico. Il bambino pone domande ontologiche inquietanti, quindi semplici, perché le fa, semplici. Capito? Quindi loro sono, devono mentire, perché non possono. Io l'ho letto nei siti loro, si dibattono. Io ho letto, uno diceva un altro, ma che devo dire? Ma devi mentire, gli diceva questo, gli dava proprio il consiglio. Ti metti lì a discutere. Che ti metti a discutere queste cose con uno, capito? Perché è una, però è ad maiorem Dei gloriam. È certo. Se no si perderebbe tutta. Bene, arrivederci a tutti, venerdì. Va bene, ci vediamo. Oggi abbiamo fatto sentiamo un extra perché era il centenario, cioè cinquantenario, insomma, oggi dovevamo celebrare pure noi, Degnamente. Facciamo i fuochi. la Cabaye che Cantalino scordandoselo. Canta. Vabbè, che risparmiamo un po'. Sì, ci risparmiamo. Beh, ci risparmiamo sì, ci abbiamo i nostri. Appunto. Va bene, ci risentiamo venerdì prossimo, sempre ore 18:15, www.ondarossa.info, da dove scaricare le vecchie trasmissioni, ora di religione, chiocciolotistici.org, la posta elettronica, fra poco il giornale radio, prima qualche spot per iniziative prossime 21.